I wanted to talk about something that came up in an interview. Stasera volevo parlare di qualcosa che è venuto fuori durante un colloquio. Which is a common question. Ed è una domanda comune. What is the difference between an intention and the act and the will? Che differenza c'è tra l'intenzione e l'atto e la volontà? So I said during the week to make it clear to yourself, especially in the standing meditation. Ho detto durante la settimana di fare in modo che questo vi sia chiaro, soprattutto nella meditazione in piedi. When we're standing there saying standing, you see. Quando siamo in piedi e etichettiamo in piedi. And then there's the intention to walk. Poi nasce l'intenzione di camminare. And if you stay with that, keep saying intending to walk, you feel a sort of energy wanting you to go. E se continuate a ripetere intenzione di camminare, sentirete una sorta di energia che vi spinge a agire. Vero? È vero? Sì. Suddenly the foot moves. E poi improvvisamente il piede si muove. So at this point a decision was made and the energy was released and further empowered. A questo punto è stata presa una decisione, l'energia è stata liberata e l'azione è stata potenziata ancora. Now what the Buddha says is, so long as a thought remains as an intention, nothing has actually happened. Il Buddha dice che finché un pensiero rimane proprio a livello della intenzione, non è ancora successo nulla. But as soon as there's an action, a thought, a word, a deed. Quindi, ma appena c'è un'azione, cioè il pensiero, una parola o un'azione, then the effect of that act will continue and we have consequences. Allora l'effetto di quell'atto continuerà e noi avremo le conseguenze, ne subiremo le conseguenze. So the technical word is the act is karma. Allora la parola tecnica è, per l'azione è karma. And the consequence is vipaka. E le conseguenze sono vipaka. So if you read that in Theravada writings, that's what they mean. The act and then the consequences, karma, vipaka. Se lo leggete nei testi appunto del Theravada, allora è questo ciò che intendono. Karma e vipaka. Whereas vipaka. Vipaka. Whereas in ordinary daily language we use the word karma to mean, you know, your just desserts, your comeuppance. Mentre invece nel linguaggio così ordinario, colloquiale, quando parliamo di karma, intendiamo più i nostri regali, il nostro dolce finale, no? Alla fine di un pasto, il nostro dessert, diciamo. Sì, quello che noi ci meritiamo. It's not dessert in that sense, it's your desserts meaning what you deserve. Ah, ok. Non è il dessert nel senso di quello che si arriva alla fine del pasto, ma è quello che ci meritiamo. Non deve essere un dolce. So, when the Buddha made rules for the monks, he always waited until somebody, monk or nun, did something wrong. Quindi quando il Buddha per formulare delle regole aspettava sempre che un monaco o una monaca facesse qualcosa di sbagliato. So somebody would say to the Buddha, so and so and so and so, he's done this. Allora qualcuno andava al Buddha e gli diceva, il tal dei tali ha fatto questa determinata cosa. So he'd say, go and call that monk to see me. Allora gli diceva, vai a chiamare quel monaco, digli di venire a vedermi. And if you read the Vinaya books. Se leggete i libri del Vinaya. He doesn't hold back. He doesn't refrain himself. The Buddha means that he always. He's not gentle, you know, kind and all that. Sì, quindi se leggete il Vinaya, che appunto sono i testi sulle regole, vedrete che il Buddha non è che si trattenesse, cioè non è che fosse particolarmente di mano leggera, ecco, gentile, delicato. he says things like, "You foolish man, you idiot, have I not taught you this and you go and do that?" Dice proprio, "Oh, uomo sciocco, idiota, io non ti ho insegnato questo e tu invece stai facendo quest'altro." And then he would make the rule and there would be a penalty, but the person he would make a rule and then give a penalty. E quindi lui a quel punto formulava una regola e stabiliva anche la penalità, la punizione. Yeah, but because the person who committed the offense first, because there was no rule, he wasn't punished. Però la persona che aveva commesso questo atto, siccome l'ha fatto prima che fosse stabilita la regola, allora non era vittima di una punizione, diciamo, non doveva subire le conseguenze. Now the reason I say this is because one of the most serious rules is stealing. E questo lo dico perché una delle regole più serie è il rubare. And if a monk or nun takes something for which the local authority would punish you, then you lose your status as a monk, as a monastic. Quindi se un monaco o una monaca dovessero prendere qualcosa o rubare qualcosa questo atto sarebbe sotto la legge dello Stato, diciamo, un crimine, allora perderebbero il diritto di avere l'abito. L'abito. Yes, in modern studies, what's the monk called in America? The American fellow. Oh, dear. He writes lots of books. This particular monk, he's made a big study of this, and it seems to be agreed with the Thai Forest Sangha. Quindi c'è un monaco abbastanza popolare in America che ha scritto un libro su questa questione che pare essere in accordo con il Sangha dei monaci della foresta thailandesi. He has said that if you steal something worth more than 4 grains of gold, this is a offense of what we call parajika. Allora dice che se rubate qualcosa che equivale o è superiore a 4 grani di oro, allora questo è considerato un grande crimine, quello che si chiama in lingua pali, paragica, a defeat, you lose your rose. Quindi è considerato una sconfitta, cioè perdi il diritto di portare l'abito. This seems a little unfair because the price of gold goes up and down. Non sembra tanto equo perché il prezzo dell'oro va su e giù. Now, was it Sumedha? It'll come to me. Recently I've lost my mobile. Di recente ho perso il mio cellulare. Now, as I was walking down the stairs, I noticed somebody had left their, I think it's a smartphone on the side there. Scendendo le scale ho visto che qualcuno ha lasciato lì sul tavolino lo smartphone. Now, if, I didn't say it happened, if I came down the stairs, seeing the phone, an intention arose, I could take that phone. Ipotizziamo, e non l'ho fatto, ma ipotizziamo che scendendo le scale io avessi visto quel telefono e avessi detto, ah, c'è un telefono. If I note the intention and say, intending, greed, and then I leave it, I pass on, no offense, no problem. Quindi se io noto questo pensiero, no? Noto l'avidità o il desiderio di prenderlo, però non faccio niente, passo, tiro dritto, allora non succede nulla. However, when I go out from the meditation hall, I see it again. Tuttavia io esco dalla sala di meditazione e lo vedo ancora. And again the desire rises, and this time I don't really catch it, it has a bit of energy. E di nuovo nasce il desiderio, ma questa volta non riesco a coglierlo, perché in sé ha già una certa energia. And my hand moves. E la mano si muove. But I quickly bring it back. Ma velocemente io la riporto indietro. This is known as a dukkata. Questo si chiama dukkata. Which means a small offense. Vuol dire un piccolo reato, ecco. Then I come back again. Poi ritorno una terza volta. This time I fail to really catch the energy and my hand moves out and I actually touch it. I actually put my hand on it. But I draw my hand away. La terza volta io non riesco a trattenermi e quindi vedo questa energia, il desiderio, ma non riesco a fermarla e effettivamente allungo la mano e tocco l'oggetto. This is a garavo, a serious offense. Questo è un garavo, cioè un reato serio. But yet I've not learnt my lesson, because on exiting from the meditation room, the desire so overpowers me that I actually grab it and move it even a nano centimeter. As I go out, lui esce di nuovo una quarta volta e questa volta praticamente non riesce a resistere praticamente alla tentazione, a questo desiderio, e sposta l'oggetto anche di un nano centimetro, ecco. Un millimetro. Paragica. E questo è già paragica. Yeah. Finish. I've lost the road. È finito, ho perso l'abito. Even if I leave it there. Anche se poi lo lascio lì. Yeah. So I may as well take it. So you see how the stages in which we do things, you see. Now, it clearly shows the stages in which we do things. Questo dimostra chiaramente le varie fasi che seguiamo nel fare le cose. How an initial intention, unguarded, grows and grows and grows over time until you actually do something that you didn't want to do in the first place. Come un'intenzione, quando non è protetta, diciamo, controllata, cresce e arrivate a fare una cosa che inizialmente non avevate assolutamente in mente di fare. So now, this evening, I just want to go through the dependent origination, which is what we chant in the morning for those of you who want to follow it. May I ask you, Chris? Ah, yes. I didn't quite get the last one. You move it, but you didn't take it. No. No, capito bene l'ultimo. That's right. No, you see. Why paragico? Because for one moment I took it and then I changed my mind. So the act was completed. Capito? Ha detto perché per un attimo io l'ho preso, poi l'ho lasciato, però l'azione è stata completata nel momento in cui io l'ho preso. È come se avessi cambiato idea, ma l'azione è stata completata. There was a moment in which I stole the phone. C'è stato però un momento in cui io l'ho effettivamente preso il telefono. Sì. On the other side, in Sri Lanka, somebody stole something from a monk. This is a true fact. Nello Sri Lanka c'è stato un monaco che ha effettivamente rubato qualcosa. And he chased the robber and took it back. Somebody stole something from him. Qualcuno ha rubato qualcosa dal monaco e il monaco ha inseguito il ladro ed è riuscito a recuperarlo. He had to leave the order because according to the rule he took what was no longer his. Ha dovuto lasciare l'ordine perché secondo le regole lui ha preso qualcosa che non era più suo. So this is what we have to understand, you see. The idea of possessing something is a legal fiction. Questa è una cosa che dobbiamo capire, perché l'idea di possedere qualcosa è come una finzione legale. It's something we agree as human beings that because this I bought this clock, it's mine. È una cosa che concordiamo come esseri umani e diciamo, siccome io ho comprato questo oggetto, allora è mio. But if I have no possession, no sense of possession of the clock, and I realize that with objects, with things, you can only use them, you can't actually possess them. Ma se non ho nessuna relazione di possesso, per esempio con un orologio, e ho l'idea che un oggetto lo si possa solo usare, utilizzare per la sua funzione, ma non posso possederlo. No, possedere is a concept in the mind. Perché il possedere è solo un concetto nella mente. Sì. So therefore, when somebody steals my clock, it's his, not mine. quando qualcuno mi ruba l'orologio non è più mio, è suo. He's got it. L'ha preso lui. He's using it. Lui lo sta usando. Sorry. Yes. If nothing belongs to no one, then why is it a crime to steal? Very good. It's because se non c'è nulla, cioè se non c'è l'idea del possesso e quindi nessun oggetto appartiene a nessuno, allora perché è considerato un reato, un crimine rubare? No. Because one are the rules set by society, which you have to obey since it's a community agreement, and the other one is a spiritual fact that actually nobody owns anything. Perché sono due cose diverse. Una è un accordo sociale della comunità, e per cui si concorda che non si deve prendere qualcosa che non ti appartiene, e l'altro invece è un fatto spirituale, rientra nell'ambito della spiritualità, che praticamente dice che non dovrebbe esserci l'idea del possesso, oppure che sia un concetto. In other words, it's just like we have a chemical reality, and underneath it is a subatomic reality, so there are different levels of laws. And the laws that we create for ourselves is to have a ordered, peaceful, harmonious society. È come le leggi chimiche, diciamo, c'è la chimica a un certo livello, poi c'è il livello subatomico, e quindi, appunto, ci sono diversi livelli. Allo stesso modo, anche le leggi possono essere interpretate a vari livelli. Noi come esseri umani ci siamo dati delle regole per poter vivere in maniera armoniosa e in pace. But these are only conventional rules, can be changed. Ma queste sono regole convenzionali, possono essere cambiate. Monsieur Proudhon, all property is theft. Proudhon, tutta la proprietà è un furto. Radical communism. Yeah. Un comunismo radicale. If that is the case, it's only in the case of a theft occurring outside the monastery that a punishment should be given. No, if the theft occurs inside, where according to the spiritual rules nothing belongs to no one, then to take something is really not a theft at all. Well, unfortunately, the thief belongs to society. The monk belongs to the monastery, the thief belongs to society. That's why they say it's only when the mistake would be condemned by society. Yes, that's right. That the monk is punished. That's it. Sì. No, c'è la distinzione, dice, vabbè, ma allora se ci sono due livelli di regole, allora il monaco dovrebbe essere punito solo se questo atto viene compiuto fuori dal monastero, perché lì valgono le leggi, diciamo, della società, ma non nel monastero dove invece la proprietà non dovrebbe esistere. Però Banti dice sì, però il ladro, diciamo così, appartiene alla società civile e quindi andrebbe punito. E Walter ha aggiunto, è per questo che le regole del Vinaya dicono che il monaco è punito laddove compie un atto che per le leggi della società sarebbe un crimine. All things owned by monks are owned actually by the community. Tutte le cose che un monaco possiede sono effettivamente possedute da tutta la comunità. I can take what another monk has. Io posso prendere quello che ha un altro monaco. He won't like it. Lui non piacerà questa cosa. But the rule for harmony and the order is I can take something if I understand that the monk would give it to me anyway if I asked. La regola tra i monaci all'interno di un monastero è questa, cioè io posso prendere qualcosa se suppongo che quel monaco me l'avrebbe data se io gliel'avessi chiesta. So if you see a monk walking out of a monastery with lots of things. Se vedete camminare, se vedete un monaco che esce da un monastero con tante cose in mano, capirete. Il perdono non c'è il pentimento in questo caso. Il perdono. Isn't it the forgiveness or repentance? No, now you see this is very interesting. There are certain rules for which there is no forgiveness. E questo è interessante. Ci sono alcune regole per le quali non esiste il perdono. Yeah, you have to leave the order. Devi proprio lasciare l'ordine. Sì. These are the four rules. Ce ne sono quattro di queste regole. Either to kill somebody or to get somebody else to kill somebody. Quindi o uccidere qualcuno oppure far uccidere qualcuno da qualcun altro. To have sexual intercourse. Avere rapporti sessuali. With any being to the depth of a mustard seed. To the depth. This is the male ruler. To the depth of a mustard seed. This is for men. Allora, quindi un rapporto sessuale con qualsiasi essere alla profondità di un seme di senape. E questo per gli uomini. The women is even worse because it's, I think, I can't remember the rule now. It's if they embrace a man with a sexual desire. Per le donne ancora peggio perché è considerato un crimine per le donne abbracciare un uomo con desiderio sessuale. I think. The other one is to steal anything. E l'altro è quello di rubare qualcosa. And the other one is to create a schism in the order. E l'altro è quello di creare uno scisma, si dice nell'ordine. Now a schism in Buddhism is nothing to do with your understanding of the Buddha Dhamma. A schism has nothing to do with dogma. Sì, quindi uno scisma nel sangue, diciamo, nell'ordine, non ha nulla a che vedere con un principio di dogma. Diciamo. Yeah, you know, in Christianity, if you don't believe Jesus is God, then that's heresy and it creates a split. Per esempio nel cristianesimo se uno non crede che Gesù sia figlio di Dio, questa è un'eresia e quindi crea una scissione. So there are some Christians I know in Holland who are Christians but they don't believe Jesus was God. Per esempio ci sono dei cristiani che conosco in Olanda che si ritengono cristiani ma non credono che Gesù sia il figlio di Dio. No. But in Buddhist understanding it's to do with the Sangha. Ma invece nel pensiero buddista questo ha più a che vedere con il sangha. It's when a group of monks does not accept the ordination of another group of monks. È quando un gruppo di monaci non accetta l'ordinazione di un altro gruppo di monaci. So at the present time we have a split, we have a schism in Buddhism. Al momento presente, ai giorni nostri, è in atto uno scisma nel buddismo. When you have a tradition, what comes after always says it's better than what was before. Quando c'è una tradizione, tutto ciò che viene dopo dice, fa dire, che si ritiene migliore di quello che c'era prima. So Christianity was the fulfillment of the Old Testament. Quindi il cristianesimo è come fosse una un completamento, diciamo, del Vecchio Testamento. And Islam was one step further. E l'Islam era ancora un passo più avanti. So each of these looks down upon the other that was there before. E ciascuno di queste religioni guarda l'altro come se fosse una cosa che è venuta prima. So we have in Buddhism Theravada, the original schools. Nel buddismo abbiamo il Theravada, che sono le scuole, è la scuola originaria. Then the Mahayana. Poi c'è il Mahayana, which looks down on the Theravada, che guarda giù al Theravada, and then the Tantra. Poi c'è il Tantra, which looks down on the Mahayana and down on the Theravada, che guarda giù al Mahayana, cioè dall'alto al basso, diciamo Mahayana, e ancora più in giù il Theravada. Okay, this manifests in the order. E questo si manifesta anche nell'ordine. When I go to a Mahayana temple, say Thich Nhat Hanh in France, or to a Tibetan temple, they respect my years in the order. Quando vado in un tempio Mahayana, per esempio quelli di Thich Nhat Hanh in Francia, oppure un tempio tibetano, loro rispettano il numero di anni che io sono stato nell'ordine. In other words, they respect my ordination. Nel senso che rispettano la mia ordinazione. This is important because it determines where you are in the food queue. Questo è importante perché determina a che punto sei nella coda per il cibo. Now, when a Mahayana monk comes to a Theravada center, he sits at the end of the queue. Quando invece un monaco Mahayana viene in un centro Theravada, si siede o aspetta in fondo alla coda. Yeah, his ordination is not respected. La sua ordinazione non è rispettata. Yeah. So you see, confusion. Confusione. Very good. Okay. So, oh dear, time goes on. If we look at dependent origination. Okay, so guardiamo l'originazione dipendente, che è il patticcio samupada nel suo foglio. On the opening talk, I was trying to define the idea of religion. Nel mio discorso di apertura ho cercato di definire questa idea di religione. That if we understand religion as tying us back to or reconnecting us back to our original state. Se intendiamo la religione come un modo per riconnetterci, ricollegarci con il nostro stato originario, then Buddhism is definitely a religion. Allora sicuramente il buddismo è una religione. And especially when the Buddha talks about the original state as being, you know, it was not born, not died, wasn't created, unconditioned. Ma soprattutto quando il Buddha si riferisce a questo stato originario come ciò che non è nato, non muore, non è stato creato, non è condizionato. Mm-hmm. And I was also saying that the Buddha gives us no metaphysical reason as to why we're here in the first place. Il Buddha non ci dà nessuna ragione metafisica che ci spiega il motivo per cui esistiamo. Mm. For him, that would be a question which leads to metaphysical propositions and inferences, which has nothing to do with the end of suffering. E quello per lui sarebbe una discussione che porterebbe a dei pensieri metafisici e delle inferenze che non ci aiuterebbero a uscire dalla sofferenza. Hmm. On the other hand, he may not have known. Però, d'altra parte, può anche darsi che non lo sapesse. And he would not fall into the error of satisfying people's need for security. E quindi non sarebbe caduto nell'errore di voler soddisfare il bisogno che avevano le persone di avere sicurezza. Mm. So other religions may talk of a loving God or of Brahman, you know, Brahma, but he wouldn't go there. Altre religioni potevano parlare di questo Dio amorevole o di un Brahma, ma il Buddha non voleva andare in questo ambito. Mm. What he does say is that those who are fully liberated, those questions disappear. Quello che però dice è che le persone che raggiungono la piena liberazione, cioè per queste persone, quelle domande spariscono. Mm. It's a complete, totally complete state, not needing anything beyond itself. È uno stato che non ha bisogno di nient'altro che vada oltre lo stato stesso. This is the meaning of unconditioned. E questo è proprio il significato del non condizionato. Mm. Now again, he doesn't. When we say original state, the original state is in this present moment. It's not in the past. It's here. Quando parliamo di questo stato originario, beh, questo è nel momento presente, nel qui e ora. Non stiamo parlando di uno stato passato. Mm. We have to give up the idea of time. Dobbiamo proprio rinunciare, abbandonare l'idea del tempo. Time is only the way that we measure the distance between events. Il tempo è il modo in cui noi misuriamo la distanza tra due eventi. Mm, but actually, what's actually happening is this now. Ma quello che sta veramente succedendo è questo, adesso. The past is completely and utterly disappeared, is gone. Il passato è assolutamente sparito, se n'è andato. There's only this. C'è solo questo. And the future has not arrived, it hasn't come, it isn't there coming towards us, it just isn't. Il futuro non esiste, non c'è, non è una cosa che ci viene incontro, semplicemente non c'è. There is only this. c'è solo questo. Ah, and tomorrow when we talk about karma, we'll see how he explains this. Domani parleremo del karma, vediamo come il Buddha lo spiega. And the fact is that here we are, and we're in a state of what he called delusion. Il fatto è che eccoci qui e siamo in uno stato di quello che lui chiamava illusione. Now the problem with the state of delusion is that you don't know you're deluded. Il problema con uno stato di illusione è che uno non sa di essere illuso. If you knew where the delusion was, then you'd stop being deluded. Se tu sapessi da dove parte o che cos'è questa illusione, smetteresti di essere illuso o confuso, si può dire. Confuso. And that is why he talks about this state of ignorance, or better still, not knowing. Ed è per questo che parlava di questo stato di ignoranza, o ancora meglio del non conoscere. Ignorance always suggests some sort of culpability, but there's nothing, we haven't done anything wrong, we just don't know. Perché usare il termine ignoranza implica sempre che uno debba essere colpevole di qualcosa, mentre invece non è così, semplicemente non sappiamo. And you know, upon birth, upon appearing in this life form, we just presume ourselves to be human beings. E solo entrando in questa forma umana, noi supponiamo di essere degli esseri umani. And we seek happiness through and in this form. E cerchiamo la felicità in questa forma e attraverso questa forma. Yeah. And of course, after a time, we realize it's not working. Ovviamente dopo un po' di tempo ci rendiamo conto che non funziona. We can attain happiness for some time, but we can't hold it. Possiamo creare della felicità per un certo periodo, ma non riusciamo a trattenerla. And therefore there's always some disappointment. Allora c'è sempre una qualche delusione. So we come into every moment with this delusion. E quindi noi entriamo in ogni momento con questa illusione. It runs underneath every moment of our lives. È come se scorresse al di sotto di ogni attimo della nostra vita. Now, because of this wrong understanding, and because of a mistake of identity, we create these mental states. E a causa di questa non chiara conoscenza e a mistake. Whose value? No, there was a second thing you said. Wrong understanding. Yeah, but then you said something else. Mistake. A causa di questo errore di fondo, and then I lost the second part. A mistake. Because of this mistake and this misunderstanding, we create. It's gone. Finished. Yeah, love that. We create mental states. Quindi a causa di questo errore di fondo, di questa confusione, di questa illusione, noi continuiamo a creare questi stati mentali. So here's your first thing, avijja paccaya sankhara. E quindi adesso se guardiamo il paccaya sammupada, il primo collegamento è questo, primo anello, avijja paccaya sankhara. So dependent on this not knowing and the delusion, we have created all these different habits within us. Quindi a causa di questa ignoranza, illusione, questo non conoscere, abbiamo creato tutte queste abitudini dentro di noi, i sankhara. Sankhara are those things that we create by an act of will. I sankhara rappresentano tutto ciò che noi creiamo attraverso un atto di volontà. Sì. Question. You're using will and intention like interchangeably? No, this is an act of will, like you've actually done something. Yeah. Questo è un atto di volontà, cioè nel senso che abbiamo effettivamente fatto qualcosa. Yeah. Remember, an intention has no effect. Ricordo, un'intenzione non ha ancora nessun effetto. Now, sankhara paccaya vijnana. See, this is, these sankharas, these habits, these conditionings, are dependent on consciousness. Quindi questi sankhara dipendono dalla coscienza. Coscienza. And the Buddha says consciousness is dependent on sankhara. E il Buddha però dice la coscienza dipende dai sankhara. Now this consciousness is It's like a television. It's like a monitor or television. Questa coscienza come fosse il monitor di una televisione. All the information which is coming into the brain-mind complex has to appear somewhere for us to know it. Tutta questa informazione che entra in questo complesso di mente e cervello deve apparire affinché noi possiamo conoscerla. So it has to appear somewhere as a sensation or a feeling or a thought or an image. Quindi deve apparire come una sensazione, come un'immagine, un pensiero. And it knows. It knows. The screen knows. E quindi questo schermo conosce il mondo. When you look out of a window, this psychophysical process knows it's a window. Quando guardate la finestra, questo processo psicofisico sa che quella è una finestra. It's a first level of cognition. E quindi questo è un primo livello di cognizione. Now, there is something which knows that. Ma c'è qualcosa che conosce quello. So, when you have a pain in the knee, quando avete un dolore al ginocchio, those sensations have to appear somewhere for it to be known. Quelle sensazioni devono apparire da qualche parte affinché possano essere conosciute. Yeah. If there's pain in the knee, but somehow the process of information is stopped, it cannot appear to be known. Se c'è questo dolore al ginocchio, ma quelle sensazioni in qualche modo sono interrotte, questo processo è interrotto, non viene, non passa praticamente, allora non viene conosciuto. Now, there must be, that is, for want of a better word, cognition. Quindi questo è la cognizione. Mancanza di una parola migliore. Here sometimes you have it translated as consciousness, but this word now is very confused because academics are studying it. A volte questo viene tradotto in italiano con coscienza, ma è una parola che crea confusione perché adesso gli studiosi la stanno analizzando, gli accademici. The scientist. Yeah. So, there can be no consciousness, or there can be no cognition of something if there's nothing to be cognized. Non ci può essere la cognizione di qualcosa se non c'è nulla da conoscere. Non c'è l'oggetto della conoscenza. Sì. And if there is no cognition, this can never be known. E se non c'è la cognizione, la conoscenza, l'oggetto non potrà mai essere conosciuto. Ah, sì. And your point of contact is where your attention is. E il punto di contatto è proprio laddove voi mettete l'attenzione. Sometimes when you are in a rush, you're moving fast, you might bang yourself, bang your foot, bang your knee, bang your hand. A volte quando siete di corsa e siete affrettati potreste andare a sbattere, no? Quindi sbattere contro il ginocchio o il piede o la mano. But because your attention is over there, you don't even feel it. Ma poiché la vostra attenzione è più in là, potreste anche non accorgervene nemmeno, non sentire il dolore. And then later on you think, e poi dopo un po' guardate e dite, ma com'è questo livido? So this tells us that even though information is coming, if it's not comes on the screen, you see, if it's not attended to, we don't know it. Questo vuol dire che quando l'informazione arriva ma non appare sul nostro schermo, nel senso che non attira la nostra attenzione, è come se non ci fosse, non la conosciamo. So now, dependent on this consciousness, the body and mind appear. So. E quindi il passaggio successivo, l'anello successivo, in dipendenza da questa coscienza appaiono mente, mind and body. Sì, sì. Mente e corpo. Sì, vijnana paccaya namarupa. Sì. So again, these two are conditioned with each other. Di nuovo, queste due si condizionano a vicenda. And then, so up until now, we have a given moment. Allora, fin qui abbiamo un momento che ci è dato, è quasi inevitabile. Yeah. So every moment there is this not knowing, this ignorance. There are all these habits, huh? And there's the body and mind, consciousness and cognition and body and mind. Quindi in ogni attimo, diciamo, ci sono questi quattro stadi, questi anelli. Quindi c'è il non conoscere, poi ci sono gli stati mentali, a questo sono collegati alla coscienza o la cognizione, e a questo ancora il corpo e la mente. Yeah. The psychophysical organism. Quindi l'organismo psicofisico. Yeah. Now we have a process. E quindi abbiamo un processo. So, now, from now on. Yeah. Da qui in poi, quindi fin qui è quasi automatico, diciamo. Da qui in avanti c'è un processo. The process begins through the six sense bases. Perché il processo comincia attraverso le sei basi dei sensi. Mm. So these are your salayatana, sì? E quindi questi sono i tuoi Namarupa paccaya salayatana. Cioè da namarupa, mente e corpo, questo condiziona salayatana, che sono le sei basi dei sensi. Mm. It's only through the six senses, which are the five physical senses in the mind. Quindi solo attraverso i sei sensi, cioè i cinque che conosciamo più la mente, that we can know the world. È solo attraverso questi che possiamo conoscere il mondo. So you can see that if a person is colorblind, he lives in a different world, a visual world, than somebody who is not colorblind. Quindi se una persona è daltonica, vivrà in un mondo diverso rispetto a una persona invece che vede tutti i colori. See? So a lot of our experience, actual experience of the world, is dependent on these six sense bases. Tutta l'esperienza che noi abbiamo del mondo dipende proprio dai nostri sensi. Then we have Salayatana Paccaya Passo. So Passo is the point of contact. This is our first experience, moment to moment. Questo è Salayatana Paccaya Passo. Passo è il contatto, quindi questa è la nostra prima esperienza, attimo dopo attimo. So, for us to be conscious of something, there must be an object. Quindi per essere coscienti di qualcosa è necessario un oggetto. There must be a sense base which receives it. Una base sensoriale che lo riceve. And there must be this cognition. E ci deve essere questa cognizione. Now, when you have pain in the knee and you go into the pain and there is only the sensations of heat, you see, and there is a knowing of it. Quando entrate nel dolore c'è solo una sensazione di calore, per esempio, e c'è il conoscere. That's the point of contact. Quello lì è passa, è il punto di contatto. Mm. And when it comes to the physical sense bases, there is said to be a combination of the four great elements. E per quanto riguarda i sensi fisici, allora si dice che c'è una combinazione dei quattro grandi elementi. Mm. There'll be some form of temperature. C'è una qualche forma di temperatura. That's fire. Mm. L'elemento fuoco. Some form of pressure. Qualche forma di pressione. Mm. That's Patavi, earth. Quella è la terra, l'elemento terra. There'll be some form of movement. Ci sarà qualche forma di movimento. There's wind or air. L'elemento aria. Mm. And some form of cohesion or elasticity. Ci sarà qualche forma di coesione o elasticità. Mm. And this is water. E questo è l'elemento acqua. No. So these four elements that you find even in Greece describe the qualities of contact. E questi quattro elementi che si trovano anche nella cultura greca, they constitute that point of contact. Costituiscono proprio questo punto di contatto. Yeah. So this is how the mind experiences matter. E questo è il modo in cui la mente fa esperienza della materia. So, for instance, it would be said that hearing is basically just pressure. Allora, si può dire che l'udire è fondamentalmente solo una pressione. Eyesight is fire. La vista è solo fuoco. È così. So, at that point, So that's the point of initial contact. Quindi questo è il punto di contatto iniziale. In the mind, it's your images and your thoughts. Nella mente corrisponde alle nostre immagini e pensieri. So now, the next position is we determine whether it is pleasant or unpleasant. Adesso il passaggio successivo è quando noi decidiamo se questa cosa è piacevole o spiacevole. È una domanda. La pura attenzione è quicker. The pure attention brings yes. This moment. That's right, the pasta. That's where your cognition is, your initial cognition. Questo è proprio l'atto cognitivo iniziale, contatto. See, usually we don't live at that level. Di solito però noi non viviamo a quel livello. We live at the next level. Viviamo al livello successivo. Passa, paccia, vedana. Vedana is when we experience things as either pleasant or unpleasant. Quindi l'anello successivo della diciamo padre passa facciaia vedana e quindi è quando noi sperimentiamo le cose come piacevoli o spiacevoli. Ah. In other words, we live in a fundamentally dualistic world of experience. Quindi fondamentalmente noi viviamo in un mondo dualistico di esperienza. Either something is pleasant and we like it, or unpleasant and we don't like it. O una cosa è piacevole e ci piace, o è spiacevole e non ci piace. There's a whole area of neutral feelings, but if you look carefully, you'll see that they are slightly pleasant or slightly unpleasant. C'è tutta una zona intermedia di sensazioni neutre, però se guardate attentamente vedrete che sono leggermente piacevoli o leggermente spiacevoli. Now, if we stop there, this is how the Buddha experiences day-to-day life. Quindi se ci fermiamo qui, questo è come il Buddha avrebbe sperimentato la vita di tutti i giorni. But we go one step further. Ma noi andiamo ancora un passetto in là. Yeah. And facciamo un passo ulteriore. And this comes from this delusion of seeking happiness in the sensual world. E questo deriva dalla nostra illusione di poter trovare la felicità nel mondo sensoriale. So the next point is vedana paccaya tanha. Quindi il punto successivo è vedana paccaya tanha, which is a form of desire based on wrong understanding. Quindi tanha è una forma di desiderio basata sulla wrong comprensione sbagliata, errata. Yeah. It's not as though the Buddha doesn't have desire, but it's not coming from ignorance. Non è che il Buddha non avesse desideri, però questi desideri non derivavano dall'ignoranza. When he felt hungry, there was the desire to go on arms run. Quando aveva fame, nasceva il desiderio di andare a fare la questa. When he ate, he experienced the taste of the food, but not greed for it. Quando mangiava, faceva esperienza del gusto del cibo, ma no, questo non era accompagnato da golosità o avidità. In the Pali there's another word for desire, which is chanda. Nella lingua Pali c'è un'altra parola che traduce desiderio, ed è chanda. Chanda. And chanda can be good or not so good. Good or bad. Può essere buona o cattiva, positiva o negativa. But the word tanha is a specific word which is used to say that this desire is arising out of delusion. Ma tanha è una parola specifica che indica che questo è un desiderio che deriva dall'illusione. Sometimes you have it translated as thirst. A volte viene tradotto come sete. Perhaps too strong as craving. Oppure a volte va un po' forte come brama. Brama. So now we have tanha paccaya upadana. Adesso abbiamo tanha paccaya upadana. Now this is a crucial point. E questo è un punto cruciale. And this goes back to our earlier discussion concerning intention. E questo si ricollega a quello che dicevamo precedentemente sulla intenzione. At the place of tanha, this is only an intention, nothing's happened. Quindi a livello di tanha siamo a livello dell'intenzione, non è ancora successo niente. So you remember my seeing the mobile phone? Ricordate l'esempio che ho fatto del fatto che quando ho visto il cellulare. So here the upadana is a point where we identify with the desire. Upadana è un punto del processo in cui noi ci identifichiamo con il desiderio. Mm. So now want becomes I want. E quindi qui voglio diventa io voglio. Mm. And we when we say identify, it means I am the desire. Quando diciamo identificare, ci identifichiamo. Questo significa che io sono il desiderio. Ah. There's no longer a separation between me and the desire. I am the desire. Non c'è più una separazione tra me e il desiderio. Io sono il desiderio. Ah. And then at that point, it's almost impossible, unless you're very, very heightened state of awareness, to catch the next moment. A questo punto è molto, molto difficile, a meno che la nostra consapevolezza sia a un livello molto alto, è molto difficile catturare il momento successivo. Because at that point of the I, there's also a decision immediately afterwards to complete the desire. Perché a quel punto, quando sorge l'io, allora c'è un'immediata decisione di completare l'azione. Mm. And that is upadana paccaya bhavo. Sì. È quello successivo, upadana paccaya bhavo. Bhavo. Now, that's another technical term, but we'll come to it in a minute. Eh? Anche questo, bhavo, è un termine tecnico, ma ne parleremo tra un attimo. Yeah. Now, so the process is... Quindi, questo è il processo. Seeing ice cream. Io vedo il gelato. No, no, io vedere il gelato. Ah. Sì. Seeing ice cream. Vedere il gelato. Wanting ice cream. Volere il gelato. I want ice cream. Io voglio il gelato. I get ice cream. Io prendo il gelato. Ah. Okay. So ice cream. Nice. Want, I, get. Io non so se funziona in italiano. Allora, gelato, buono, voglio, io, prendo. Così, eh. Now, this is really important, because if it was the other way around, there'd be no escape. E questo è molto importante, perché se il processo fosse al contrario, non ci sarebbe possibilità di sfuggire. If the I came first, with identity... I want ice cream. That's it. You can't escape that identity. Perché se dovesse tutto questo processo cominciare con io, quindi io voglio il gelato e me lo prendo, allora questo è un processo cui non possiamo scappare, perché sarebbe tutto conseguenziale. Ah. It's because the Buddha discerned this process that he also saw the escape. È proprio perché il Buddha ha in qualche modo analizzato bene questo processo che ha trovato il modo per scappare, ha trovato una via di fuga. Sì, and the escape is in between Vedana and Tanha. E la via di fuga è proprio tra Vedana e Tanha. Between pleasant sensation and desire. Quindi tra le sensazioni piacevoli e il desiderio. That's why when a desire comes up, we just observe it, we don't do anything, and when it goes away, we've escaped another moment of suffering. Ed è per questo che quando sorge un desiderio, noi riusciamo semplicemente ad aspettare e fare in modo che si risolva, noi abbiamo guadagnato un momento di non sofferenza. Mm. We've escaped the moment of suffering. Siamo scappati da un momento di sofferenza. Bhavo means to become. Quindi bhavo significa divenire. Ah. So the moment there is first of all an act of will, get the ice cream. Quindi il momento è un atto di volontà, prendo il gelato. It's the I which has got the ice cream. Ed è l'io che ha ottenuto gelato. So the I has reinvented itself as somebody who gets ice cream. E quindi l'io si è reinventato come qualcuno che ha ottenuto un gelato. The next invention will be the person who eats the ice cream. I eat the ice cream. E poi l'invenzione successiva sarà io mangio il gelato. So the I is constantly recreating itself. Quindi è come se questo io costantemente si ricreasse. So there's no such thing as a self, there's only a process of selfing. Moment after moment. Quindi non c'è, in realtà non è che non c'è un sé, ma è un processo di ricostruzione, ricreazione di questo sé, attimo dopo attimo. About selfing. Selfing si dice in inglese. Seando. No, non va, non funziona. È molto flessibile. Quindi praticamente il sé è stato trasformato davanti in un verbo selfing. In English you can put ing on the end of any noun and you have a verb. In inglese basta aggiungere ing a un qualsiasi sostantivo e hai ottenuto un verbo. So Once we have begun the action, there is the process of the beginning of the action, the middle section, and the end of it. Una volta che abbiamo messo in moto, diciamo, l'azione, c'è un processo che è costituito dall'inizio dell'azione, la parte in mezzo e la fine. And this is the meaning of moment to moment, being born, growing old, and dying. E questo è il significato del essere nato, invecchiare e morire attimo dopo attimo. So for us to see this dependent origination as a moment returning makes a lot of sense to us. E quindi questo fatto di vedere l'originazione dipendente come un momento che continuamente ritorna, per questo per noi ha un senso. It doesn't happen all the time, it's not happening when we're asleep. Non succede sempre, non succede quando dormiamo, per esempio. But any time we're in the process of desiring, then it's happening. Ma ogni volta che siamo in questo processo del desiderare, allora sta succedendo. Yes, and even when we're doing something beautiful, there's still the sense of I, me, doing something beautiful. E anche quando stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, c'è sempre questo senso del io che faccio qualcosa di meraviglioso. Sì. So that the most... So long as there's a self, there will always be some grain of conceit. Quindi ogni volta che c'è questo senso del sé, finché ci sarà il senso del sé, ci sarà come un granello di presunzione, cioè di... Conceit? No, concetto, no? No? No, conceit. Di solito significa presunzione, però in questo contesto direi proprio di... conceit. Di rinforzare la propria personalità, consentirsi. Sì, un amore per se stessi. There are three conceits. Sono tre tipi di conceit, presunzioni. I'm better than you. Quindi io sono meglio di te. I'm worse than you. Sorry. Io sono peggio di te. And more subtle, I'm equal to you. È ancora più sottile, io sono uguale a te. When I say I'm equal to you, I create a group. Quindi quando io dico sono uguale a te, io ho creato un gruppo. And this group is either worse than or better than other groups. E questo gruppo è o meglio o peggio di altri gruppi. So this is a false humility. Quindi questo è un atto di falsa umiltà. So these are the three conceits. Queste sono le tre atti di presunzione. Come? Sono atti di presunzione, di credersi meglio o peggio, uguale agli altri. Ok. Autostima può essere forse. Ok, so that in insomma is the dependent origination. Quindi questa è la originazione dipendente. Yeah, in short. In breve. There is another interpretation which is more traditional, which takes in three lives. C'è un'altra interpretazione che è quella più tradizionale che vede questa catena, diciamo, nell'arco di tre vite. Yeah. So from the past life, when we die, we've ended up with the same ignorance and also attitudes habits. Quindi quando moriamo e nasciamo in una nuova vita, noi nasciamo con le stesse atteggiamenti, la stessa ignoranza di fondo, le stesse abitudini. This is as close as Buddhism gets to original sin. E questo è il punto più vicino del buddismo al peccato originale. And then in this life we go through this process. E poi in questa vita noi attraversiamo tutto questo processo. And then when we die, we go through the process again of being born, going through the process and dying. E quando moriamo attraversiamo di nuovo questo processo. E poi rinasciamo. Born, nasciamo, growing old, dying. Di nuovo nasciamo, di nuovo invecchiamo e poi moriamo. Now, nella prossima vita, sì. Nell'arco di tempo. Now the other one, the paticca patiloma, when the Buddha says when this disappears, that disappears. Poi c'è l'ordine inverso nella paticca patiloma, praticamente. Yeah. E il Buddha dice quando questo se ne va, quello se ne va. Now there's two points where the whole structure begins to collapse. Quindi ci sono due punti nei quali tutta questa struttura crolla. The first one is at this point of tanha, vedana, feeling, and pleasant and unpleasant feeling, and desire or aversion. Un punto è questo, sensazioni piacevoli o spiacevoli, e il desiderio o l'avversione, a seconda. This is undermining all those habits. E questo, in un certo senso, è come se intaccasse alla base tutte queste abitudini. And the other point is at the point of identity. E l'altro punto critico è quel punto dell'identità. And that's when we begin to perceive impermanence and not self. È lì che cominciamo a percepire l'impermanenza e il non sé. So when we're meditating and we're observing how everything is process. Quando meditiamo vediamo come tutto è un processo. Then we see the self is not a stable entity. Vediamo che il sé non è un'entità stabile. But it is recreated every moment. Ma ogni momento si ricrea. When you wake up in the morning, you see, you wake up, you say, I'm here again. Uno si sveglia al mattino e dice, sono ancora qui. Tomorrow morning when you wake up, say to yourself, I'm here again. Provate a dirlo domani mattina quando vi svegliate, sono ancora qui. See? The I has risen. E di nuovo sorto l'io. And the other one is this not self, which is to do with objectifying everything that we experience within ourselves. E l'altro è questo processo del non sé, e vuol dire oggettivizzare tutto quello che noi stiamo sperimentando dentro di noi. And that's why the noting is a good technique, because it's there, not here. Ed è per questo che la nota mentale è una buona tecnica, perché è come se ciò che succede è lì, non qui. And the sense of control. E poi il senso del controllo. Yeah. So remember, the self is supposed to be in control of itself. Il sé dovrebbe essere in controllo di se stesso. If it's not in control of something, then it can't be me. E se non è in controllo di qualcosa, non posso essere io. So the three characteristics are the way we undermine this whole process created by delusion. E quindi attraverso la conoscenza delle tre caratteristiche noi vediamo come tutto questo processo è creato dall'illusione. Easy weasy peasy. Come si traduce? È un modo di dire. Facilissimo. Sì. In inglese sono molto meglio. Lo si dice ai bambini, no? Easy, non so se in italiano c'è la similitudine. The actual practice, remember, is so simple. La pratica effettivamente è così semplice. It's just having the faith, the confidence that there is within us this intelligence that can see this. È solo avere questa fiducia che dentro di noi c'è questa intelligenza che è in grado di vedere tutto questo. Even now, having gone through it, and many of you many times, you understand it at some decent level, at some level. anche solo il fatto di averlo visto, analizzato, insomma, ripetutamente, per tutti noi comunque c'è una comprensione ad un certo livello. So now this intuitive awareness knows. E quindi adesso questa intelligenza intuitiva lo sa. But it only knows by way of the intellect. Ma lo sa solo attraverso l'intelletto. But it knows. Ma lo sa. So therefore now it has to let go of the intellect and just watch. Allora adesso deve lasciare andare l'intelletto e semplicemente osservare. And then it sees. E poi lo vede. Even by this weekend we could all be liberated. Anche entro questo weekend potremmo tutti essere liberati. Magari. That's the tender origination. And you know, there's nothing in Indian literature like this until the Buddha. Non c'è nulla nella letteratura indiana di questo genere fino a quando, fino all'età del Buddha. It was a l'epoca del Buddha. Yeah, it was without doubt a breakthrough for humanity when he saw this. È stato senz'altro proprio una grande scoperta per l'umanità quando lui è riuscito a vedere questo. Sì. Much more important than the wheel. Molto più importante dell'invenzione della ruota. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your careful examination of all that arises and passes away. E attraverso la vostra il vostro attento esame di tutto ciò che sorge e passa. May you be liberated from all suffering sooner rather than later. Che voi possiate essere liberi da tutta la sofferenza prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu.